We have had some technical problems. Hit it! 2 0 2 4 2024. Quella che sentite è la sigla che solitamente utilizziamo per il sommario di 2024. Oggi non c'è nessun sommario perché il tema di questa puntata ruota attorno ad un'unica parola. Parleremo di ebook, questo tra poco. Siamo in diretta da Torino, dal Salone del Libro di Torino, e tra l'altro sentite anche l'applauso, grazie, applauso che va ai nostri ospiti che sentiremo tra poco. Questa è una breve anteprima della nostra puntata che andrà in onda tra poco qui dallo stand di Radio 24, anche con l'aiuto e la collaborazione, le domande del pubblico che è qui presente, quindi daremo anche la parola a voi, naturalmente come sempre anche da casa, per parlare di libri digitali. Ci faremo alcune domande. Si possono prestare gli ebook? Che fine faranno le librerie, le biblioteche? Dove e come si comprano i libri digitali? Questo tra poco 2024, vi aspettiamo adesso come sempre. Iniziamo la nostra puntata con il mondo del videogioco, del gioco, con Stefano Gallarini. Video game. Oggi una puntata particolare dedicata al mondo dei videogiochi, perché siete in diretta dal Salone del Libro di Torino, quindi ci occuperemo esclusivamente del gioco che li vede protagonisti. Ecco intanto la soluzione di quello della settimana scorsa. Livello 1. Non è mia, ma non è tua. La risposta era sua. Livello 2. Quando si perde il primo, spesso c'è un soldino. La risposta era dente. E mettendo insieme le due parole si ottiene sua dente. E il mostro di fine livello chiedeva: mostro di fine livello. Era così quella di alcune donne dell'Odissea. La risposta era voce, sua dente, proprio come quella delle sirene. Complimenti a Francesco che si porta a casa un buono da 300 euro. E veniamo adesso al gioco di questa settimana. Come al solito, dovete risolvere i due livelli per sconfiggere il mostro di fine livello e avere la soluzione da inviare a videogiochi@radio24.it. Per la prima persona che indovina, mandando appunto la mail, quindi la prima mail che arriva, c'è un buono da 300 euro da spendere online o in qualunque punto vendita Unieuro. Livello 1. La piccola paura degli elefanti. A questo punto vi faccio ascoltare subito il secondo livello. Livello 2. La fibra di molte camicie estive. Ecco adesso la terza parte del nostro gioco, che è il mostro di fine livello da sconfiggere con la risposta giusta alla domanda che sto per farvi. Ricordate che chi invierà la risposta corretta per primo si porterà a casa un buono da 300 euro da spendere online o in qualunque punto vendita Unieuro. Mostro di fine livello. Così si chiama il suo fedelissimo cane. La risposta a videogiochi@radio24.it. È tutto, la linea può tornare a Enrico Pagliarini, al Salone del Libro di Torino e a 2024. Game over. Di Enrico Pagliarini. Oggi parliamo di libri digitali, siamo, come vi ho detto poco fa, al Salone del Libro di Torino, in diretta dal vivo anche con i nostri ascoltatori che oggi ci ascoltano proprio qui davanti nel nostro stand, molto bello, molto organizzato. Saluto già i nostri ospiti, Antonio Tombolini, che è amministratore delegato di Simplicissimus Book Farm. Benvenuto, bentornato a 2024. Grazie, buonasera a tutti. Dunque, io ricordo che ho intervistato la prima volta Antonio Tombolini nel lontano 2007, il primo dicembre del 2007 avevamo organizzato un approfondimento sul mondo dei libri digitali, perché una dozzina di giorni prima, il 19 novembre del 2007, usciva sul mercato americano il Kindle di Amazon, che alcuni hanno definito l'iPod dei libri. In qualche modo, Antonio, possiamo dire che anche oggi citeremo alcune volte Amazon, perché da quando è uscito questo tipo di libro digitale, questa offerta digitale, qualche cosa è cambiato, anche se per il mercato italiano alcuni dicono che le cose sono cambiate dall'autunno e stanno cambiando in queste settimane. Sì, tutto cambia, cambia anche molto rapidamente. Amazon fa cambiare le cose per il peso che un player di questo genere ha sul mercato del libro, anche dove non c'è. E quindi in Italia ha cominciato ad esserci sui libri di carta con l'apertura di Amazon.it a novembre scorso, e credo che qualcosa stia facendo succedere. Secondo me sta già facendo succedere qualcosa anche sugli ebook, magari ne parleremo, anche se su Kindle in Italia ancora non esiste. Chiariamo subito che quando parliamo di ebook spesso intendiamo due cose distinte: il lettore, che andrebbe definito ebook reader o e-reader, e anche i contenuti, quindi libri digitali veri e propri, cioè quelli che leggiamo. Allora, spieghiamo quali sono le differenze. Sì, in realtà la cosa si presenta, ormai ci sembra scontato, anche quando parliamo di libri. Noi parliamo di libri. Un libro cos'è? È quella cosa fatta di carta e di tante pagine, ma è anche quella cosa che leggo, e quindi magari Promessi Sposi o La Divina Commedia. Per gli ebook e gli ebook reader non è diverso. C'è questa ambiguità che in qualche modo contrassegna un po' questo genere di cose, per cui in realtà dovremmo essere più precisi, e quindi ebook reader è il dispositivo, l'hardware che ci consente di leggere, mentre ebook è il libro, il contenuto che posso inserire nell'hardware di lettura e che poi leggo effettivamente. Un'altra cosa che va detta, perché spesso ci si confonde, tu hai davanti a te oggi per prendere appunti un tablet. Una cosa sono i tablet, una cosa sono gli ebook reader. Esattamente, l'ebook reader è un dispositivo elettronico che fa una cosa soltanto: serve a leggere libri. Dirò di più, serve a leggere soltanto alcuni libri, esattamente quei libri che sono fatti quasi esclusivamente di testo. Sono in bianco e nero, arriveranno anche a colori, ma questo cambierà poco. Sostanzialmente è un dispositivo creato e ottimizzato per fare quel mestiere lì. Il tablet, come tutti abbiamo imparato dall'avvento di iPad in poi e tutti i tablet che adesso stanno arrivando da parte degli altri grandi produttori sul mercato, è invece una evoluzione, si potrebbe dire, del personal computer, perché è uno strumento che è in grado di fare tante cose, quindi uno strumento non specializzato, multifunzione, che si colloca anche all'interno del mercato degli ebook, ma soprattutto, al contrario dell'ebook reader, come strumento ideale per quegli ebook, per quei libri elettronici dove il contenuto di immagini, di animazione, di multimedia, di interattività è prevalente. Ricordo ai nostri ascoltatori che possono chiamarci come ogni weekend, ogni sabato, al nostro numero verde 824 0024, ma oggi, come dicevo poco fa, c'è anche la possibilità di intervenire, quindi io vi invito a farci domande proprio su questo mondo che sta cambiando molto rapidamente, cioè quello dei libri digitali. Alessandro Longoni, lo vedete, alza la mano, fatti vedere, raccoglierà le vostre domande e naturalmente le più interessanti le manderemo in onda, potrete farle tra poco. C'è anche un'altra possibilità, ovvero quella dell'SMS 349-238-6666, e aggiungiamo anche la pagina di Facebook che sto guardando in questo momento. Se volete fare una considerazione o una domanda su Facebook potete farla. Laura Donnini è direttore generale delle edizioni Mondadori, uno degli editori più grandi non solo in Italia ma d'Europa. A proposito della differenza tra lettore di libri digitali e tablet, visto che i tablet si stanno diffondendo molto, e poi chiederemo anche un parere agli altri ospiti, ma mi sembra che i lettori di libri digitali non si siano ancora diffusi così tanto. Voi come vi avvicinate a questo mercato? Buongiorno a tutti. Innanzitutto, credo che la distinzione primaria vada fatta proprio in termini di vocabolario. L'ebook reader, come diceva Antonio, è un dispositivo di lettura, si leggono sostanzialmente fotocopie digitali, quindi è un dispositivo che è perfetto per chi ama leggere molto, chi ama leggere portandosi dietro in viaggio molti libri, e sostanzialmente si presta per quei libri che, lo vediamo dalle classifiche di vendita, riflettono le classifiche, quindi molti gialli, molti romanzi da bestseller list. Il tablet in realtà è un'esperienza di lettura totalmente diversa, ovvero abbiamo la possibilità di trasformare un contenuto che normalmente viene letto in un contenuto interattivo, multimediale, che ha la possibilità di essere condiviso e che si rende particolarmente idoneo a quei prodotti, diciamo ai libri per bambini, tanto per fare un esempio, dove evidentemente il pubblico è già abituato ad un linguaggio, sono abituati a giocare con i telefonini, con i videogiochi, con le console, quindi la proposta di un prodotto che dia la lettura, magari con l'audio dell'autore preferito che legge, la possibilità di giocare, prendere note, prendere messaggi vocali, mandare la mail all'amichetto, è evidentemente un'esperienza completamente diversa. Voi investite più sui tablet o più sugli ebook reader? Noi investiamo in questo momento nella digitalizzazione dei contenuti primariamente rivolta agli ebook reader. E ci state investendo? Cioè, sì, un mercato interessante, sì, che sta crescendo o ancora troppo piccolo? No, è un mercato che in Italia non esiste, diciamo, è molto molto piccolo, ma perché manca la penetrazione dei lettori. Finché non arriverà Kindle, che effettivamente è stato l'elemento di rottura in tutti i mercati, ci sono pochissimi lettori in giro. Mentre mancano i libri. E mancano anche i libri. Diciamo che gli editori sono partiti a digitalizzare i contenuti da ottobre, quindi oggi ci sono per il gruppo Mondadori 2.000 titoli, per tutto il mondo editoriale italiano 8.000 titoli, quindi manca l'offerta. Il processo di conversione è complicato, per cui non è così immediato. Noi stiamo cercando di rendere disponibili in versione digitale tutti i libri quando escono. Evidentemente ci vuole pazienza, i mercati più sviluppati, che sono gli Stati Uniti e Inghilterra, hanno fatto registrare negli ultimi mesi un'accelerazione pazzesca, per cui è fondamentale per noi editori attrezzarci a ragionare di contenuto più che di forma fisica. E questo è un cambio di paradigma non facile, ma sicuramente necessario. Stiamo parlando di libri digitali, di ebook a 2024, oggi in diretta dal Salone del Libro a Torino. Siamo nel padiglione 2, ci trovate molto facilmente, una breve passeggiata e ci vedete, perché siamo con mille colori, abbiamo i colori dell'Italia, verde, rosso e naturalmente il bianco, perché oltre che essere a Torino, insomma, festeggiamo anche i 150 anni dell'Unità d'Italia. Allora, Laura Donnini di Mondadori, dicevo, c'è un rischio, adesso chiaramente non nel giro di pochi anni, però attendere può succedere in un mondo dove la digitalizzazione ci ha fatto vedere che ci sono grandi gruppi che riescono a distribuire contenuti a tutto il mondo. C'è il rischio anche nel mondo dell'editoria che pochi player, probabilmente anche Mondadori sarà uno di questi, riusciranno a distribuire i contenuti in un mondo dove tutti avranno un lettore, che sia ebook reader o tablet, invece di andare a comprare il libro in libreria lo scaricano da uno dei pochi portali che ci saranno. Ma distinguerei due aspetti. Da un lato ci sarà molto più spazio per tutti gli editori e anche per tutti gli scrittori più o meno famosi, probabilmente gli esordienti avranno lo spazio, la possibilità di essere letti attraverso un contenuto digitale, quindi superando le forche caudine degli editori che non prendono rischi, che hanno mille complicazioni. Dall'altra, evidentemente ci sarà un problema di contrazione della distribuzione fisica, che noi non ci auguriamo, perché noi editori viviamo sul libro di carta per il momento. È un fatto però che, per esempio, negli Stati Uniti le librerie tradizionali, anche le catene, siano in forte difficoltà. E questo è facilmente spiegabile, perché quando tu con un click, in qualsiasi momento, da qualsiasi parte del mondo, puoi decidere di comprarti un libro e te lo puoi scaricare leggendolo sul tuo lettore, è evidente che sempre meno persone probabilmente andranno in libreria. La cosa che ci sta un po' sorprendendo, ma che di fatto è già avvenuta su altri mercati, è che dei player, anche se non mi piace parlare in inglese, che non si sono mai interessati di un mondo editoriale che perlomeno in Italia non è particolarmente sviluppato, e parliamo di Google, parliamo di Amazon, parliamo di Apple, hanno deciso di investire fortemente in contenuti. Diciamo che loro saranno i player mondiali. Ci sarà probabilmente spazio più per tanti editori. Forse l'anello un pochettino più debole in questa filiera sarà quella dei librai. Noi cercheremo con tutti i modi e i mezzi possibili di far passare questo messaggio che vendiamo i contenuti, per cui a prescindere dalla forma fisica vogliamo farli arrivare al lettore. La libreria dovrà porsi nel mezzo come canale che rende accessibile questo contenuto sia in forma fisica che in forma digitale. Antonio Tombolini, c'è questo rischio, in un minuto poi ci torniamo, il rischio che le librerie scompaiano, le librerie come faranno a distinguersi in questo contesto? Ma il rischio che scompaiano non dipende dall'avvento degli ebook, perché l'economia dell'editoria di carta sta diventando largamente insostenibile, quindi la crisi dell'economia di carta nei vari comparti dell'editoria, forse nel libro ancora un po' meno, ma l'abbiamo già visto con i quotidiani, con le riviste e quant'altro, è un tema che non è causato dall'ebook. Quindi la cosa va correttamente vista e secondo me da questo punto di vista ha senso fare proposte anche alle librerie fisiche come opportunità che si può progressivamente costruire di trasformare le professionalità dell'editoria, anche quella del libraio, diventando non più il luogo dei libri ma il luogo delle persone che leggono i libri, indipendentemente dal fatto che questi libri poi siano di carta piuttosto che elettronici. Un'ultima domanda per Laura Donnini. Vedo che alcuni ascoltatori ci dicono ci sono ancora troppi vincoli ai libri, perché una delle domande che ci faremo dopo è: si possono prestare i libri? In alcuni casi no. Voi come editore ritenete che i DRM, anche in questo caso usiamo un termine che non è proprio molto facile, molto popolare, però questi vincoli che bloccano un po' il libro, debbano scomparire oppure no? C'è un dibattito acceso. Però, un minuto solo. Su questo. Oggi il DRM tutela sostanzialmente l'autore ed è un deterrente per la pirateria. Io ritengo che la pirateria si combatta con la qualità e con il giusto valore, il giusto prezzo. Quindi è una discussione che potrebbe prendere molto tempo. Lei legge molti libri digitali o è ancora affezionata alla carta? Molta carta. L'unica cosa è che la sera, per questioni pratiche, leggo sull'iPad, perché così non ho bisogno della lampadina. Quindi non su un ebook reader. Infatti poi parleremo anche delle lampadine. Io ringrazio Laura Donnini per essere stata con noi. Nella seconda parte incontreremo anche gli altri ospiti. A presto, buon grazie, lavoro. Grazie a tutti. E buon weekend. Adesso ci colleghiamo con Maria Chiara Grandis, perché noi, come vi dicevo, siamo a Torino e ricordo anche alle persone che ci stanno ascoltando qui dal nostro stand, sono sedute in platea, che potranno intervenire, fare domande per chiarire i dubbi che ancora ci sono, perché questo è un mercato che sta nascendo sugli ebook. Ma adesso andiamo a Genova con Maria Chiara Grandis, stiamo facendo il giro dell'Italia della tecnologia e oggi parliamo naturalmente di ebook. Maria Chiara, dove ti trovi oggi? Ciao. Ciao Enrico, buon pomeriggio. Oggi siamo, come dicevi, a Genova, Genova Campi, al punto vendita Unieuro. Anche noi qui stiamo parlando di ebook con i consumatori, gli addetti alle vendite, ma soprattutto parliamo dei dispositivi su cui poi l'ebook si legge, quindi di ebook reader. Ecco, ci dicono che chi acquista l'ebook reader a volte lo regala, soprattutto anche in vista dell'estate, questo per portare ovviamente in vacanza i libri senza appesantire però la valigia. A volte tuttavia i consumatori sono un po' confusi, lo dicevate anche voi, vogliono sapere come orientarsi sulla scelta di un buon ebook reader e hanno bisogno di molte informazioni. Certo, quello che possiamo dire è che la curiosità sia nei confronti degli ebook sia nei confronti degli ebook reader sta crescendo. Allora sentiamo le voci che abbiamo raccolto poco fa. Sì, li leggo e sono molto comodi, 1200 libri c'ho a casa e stanno tutti in un DVD, me lo porto dietro. In spiaggia meglio il cartaceo, anche per non rovinare la tecnologia. Che caratteristiche cerca in un ebook reader? Adesso hanno migliorato moltissimo la questione del peso, della leggibilità, della durata della batteria, questi senz'altro sono i fattori principali. Dimensione e leggibilità. Stiamo cercando per fare un regalo. Bianco e nero o colori? Bianco e nero, perché è più simile al libro. Il prezzo degli ebook? Forse un po' alto, cioè per conto mio dovranno scendere comunque questi prezzi. Questa era Maria Chiara Grandis, collegata con noi da Genova. Torniamo a Torino, ancora due minuti prima di dare la linea a GR24. A proposito di prezzi, un ebook contenuto, cioè quindi un libro, quello che io vado a leggere, quanto costa mediamente? Più o meno, molto meno rispetto a un libro tradizionale? C'è ancora una grande variabilità, gli editori non hanno ancora trovato uno standard su cui attestarsi e credo che siano in corso diversi esperimenti. Ci sono editori che stanno sposando la causa del prezzo comunque molto basso e quindi si trovano libri anche di editori che partono dai 2,90 euro e possono arrivare anche 4,90 euro, eccetera. Ci sono ancora libri che invece costano addirittura di più della carta, perché si innesca uno strano fenomeno per cui l'editore su un certo titolo decide di mantenere il prezzo dell'ebook piuttosto elevato, poi nel mondo della carta Ormai sono continue le operazioni di sconto sul prezzo di copertina, e va a finire che il prezzo della carta scontata diventa più basso del prezzo dell'ebook. Grande confusione sotto il cielo. La buona notizia in riferimento all'intervento che abbiamo appena ascoltato sui prezzi degli ebook reader: è vero che possono ancora scendere, però Enrico, ricorderai che proprio in quel primo incontro di quella prima intervista del 2007 gli ebook reader disponibili in Italia costavano 650 euro. Sì, oggi i modelli base sono acquistabili a 199 euro. Siamo di nuovo in diretta dal Salone del Libro di Torino, Padiglione 2. Potete venirci a trovare se state arrivando e magari ci state ascoltando in questo momento. Siamo facilmente individuabili. Grande stand di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini. Stiamo parlando oggi di ebook e di ebook reader. Avremo tra poco anche una serie di domande dei nostri ascoltatori, ma non possiamo non raccontarvi alcune delle notizie più importanti della settimana. Digital News. La notizia più importante di questa settimana riguarda Microsoft. Forse ricorderete che per 8,5 miliardi di dollari diventerà proprietaria di Skype, il più diffuso sistema per telefonare gratuitamente o a prezzi molto bassi sfruttando la rete internet. Skype dovrebbe continuare ad esistere come software autonomo, ma verrà anche integrato in tutti i servizi e i software di Microsoft. Mentre anche l'FBI indaga e in rete è ancora acceso il dibattito sull'attacco informatico che ha messo KO il network online della PlayStation, pensate, fermo dal 19 aprile, arriva sempre dal Giappone la notizia che un gruppo di pirati informatici si è introdotto nei database della Square Enix, una società che non è famosa come nome, ma ha creato alcuni tra i videogiochi più noti al mondo come Final Fantasy o Tomb Raider. 25.000 indirizzi email potrebbero essere stati copiati. Questa settimana c'è stato l'incontro annuale tra Google e gli sviluppatori Chrome e Android. La notizia più importante riguarda l'arrivo il 15 giugno anche in Italia dei primi attesi computer portatili con sistema operativo Chrome, i cosiddetti Chromebook. Saranno prodotti al momento da Acer e Samsung. Arriva così una nuova categoria di netbook con sistema operativo molto leggero e applicazioni che vengono utilizzate online, come si dice, in the cloud. Digital News. Abbiamo un'ultima notizia: si muove il mondo dei pagamenti elettronici via cellulare anche in Italia. I principali operatori mobili italiani, ovvero TIM, Vodafone, Wind, Tre, Poste Mobile e Fastweb, hanno lanciato una piattaforma che permette di acquistare contenuti e servizi utilizzando il credito della ricaricabile o l'abbonamento. Si potranno fare micropagamenti per un importo inferiore ai 15 euro. Se un editore, ad esempio, che vende contenuti online aggiunge questa modalità di pagamento a quelle già utilizzate, un cliente potrà acquistare con un semplice click senza usare carte di credito o altri sistemi. Digital News. E queste le principali notizie della settimana, ma come dicevo oggi ci occupiamo di ebook. Allora cominciamo a sentire i nostri ascoltatori, dopo naturalmente cercheremo di rispondere. Marco da Roma, buongiorno. Sì, buonasera. L'ascoltiamo. Salve. Volevo fare due domande. Una partendo da una considerazione da quello che avete detto, cioè la scomparsa delle librerie fisiche. Già oggi io sinceramente premetto che sono un utilizzatore di un ebook reader o un Sony, però dico, le librerie fisiche secondo me pian piano stanno scomparendo, anche perché la grande distribuzione sta facendo forti sconti anche sui libri fisici, quindi io personalmente a volte guardo le novità in libreria e poi li acquisto online, i libri cartacei. Seconda domanda? Sì, no, dicevo, queste le offerte forti che fanno la grande distribuzione, perché non c'è sugli ebook, ma c'è solo sui libri cartacei? Ecco, questo volevo chiedere principalmente. Beh, immagino, perché siamo solo agli inizi, però questa domanda mi dà la possibilità di presentare un altro degli ospiti che abbiamo oggi. Che è con noi Cristina Mussinelli, che è responsabile dell'area digitale dell'Associazione Italiana Editori. Benvenuta, grazie di essere con noi. Grazie a voi. È corretto o è troppo semplificato dire che è un mercato che è solo agli inizi e quindi non si è ancora sviluppato un sistema di scontistica così come in altri settori? Sì, diciamo che il ragionamento è quello che diceva prima anche Antonio Tombolini. Le sperimentazioni che stanno facendo gli editori adesso sono anche molto sui prezzi e su quelle che sono le modalità di offerta, tenendo conto che sui libri digitali c'è una differenza rispetto al libro cartaceo, che è l'IVA, cioè l'IVA sul libro digitale, siccome viene equiparato ai servizi, è del 20%, quando sul libro cartaceo l'IVA è del 4%. Ci sono tutta una serie di discussioni a livello europeo, perché un paese non può a livello nazionale cambiare l'IVA, però questo sicuramente sui prezzi è un elemento, come dire, abbastanza consistente. Sì, in ogni caso mi sembra corretto sottolineare questa parte del ragionamento, cioè che siamo talmente agli inizi di un mercato per cui si cominciano a fare anche un po' di sperimentazioni. Andiamo nella provincia di Chieti. Pietro, buongiorno, l'ascoltiamo. Buongiorno, buongiorno. Sì, la domanda è questa. Io sono un piccolo editore e mi sto affacciando al mercato dell'ebook. C'è una preoccupazione di fondo molto, molto consistente, che è la sicurezza nei confronti della pirateria. Cosa mi può dire riguardo a questo? La ringraziamo per questa domanda, Pietro, perché alla pirateria vogliamo dedicare una parte della trasmissione. Tra pochi minuti parleremo proprio della pirateria, che è un problema in generale quando si parla di digitalizzazione dei contenuti. Ne abbiamo parlato a lungo, ma ne stiamo ancora parlando per quanto riguarda la musica. Tra le notizie della settimana vi cito, a proposito di pirateria, una vicenda che si è conclusa dopo, pensate, 5 anni. Ricorderete LimeWire, un popolare servizio di peer-to-peer. Dopo una vicenda giudiziaria molto lunga, l'associazione che rappresenta l'industria musicale americana, la RIA, si è messa d'accordo col fondatore di questo sistema che ha accettato di pagare 105 milioni di dollari. Antonio Tombolini, quello che è successo, ma che ancora sta succedendo alla musica e anche al mondo del video, sta effettivamente capitando anche al mondo dell'editoria, e quindi si inserisce in questo processo di digitalizzazione? Aspetta che non ti sentiamo. Sì. Io spero che gli editori facciano tesoro di quello che è accaduto alla musica, che sintetizzerei molto semplicemente in questi termini. Mentre i 5 o 6 più grossi editori musicali, le major, passavano il tempo a spendere soldi su studi legali e avvocati nel sogno di battere la pirateria, c'è stato un signore che con la musica non c'entrava niente, che ha pensato che la pirateria può essere un fatto, ma che forse c'è anche spazio per un mercato legale. Questo signore si chiama Steve Jobs, oggi controlla il mercato della musica digitale. Gli editori, credo, hanno tempo e possibilità sufficienti per incamerare questa lezione ed evitare di fare la stessa cosa. La pirateria è un fatto. Ci sono discussioni anche sugli effetti della cosiddetta pirateria. Non mancano negli Stati Uniti studi da cui si può desumere che in alcune circostanze il titolo che viene piratato ha, ad esempio, uno strano effetto di nuovo picco di vendite della versione cartacea. Ci sono studi attraverso cui l'analisi della distribuzione cosiddetta pirata di alcuni contenuti è un indicatore di marketing sull'accettazione o meno di quel titolo, oppure sulla sul giusto livello di prezzo a cui viene offerto. E, insomma, il fenomeno è esistente, è molto interessante, molto complicato. Di certo l'approccio per cui si possa pensare di reprimerlo a forza di azioni legali, se c'è una cosa che la musica ci ha insegnato, è che è l'approccio più sbagliato che si possa avere. Visto che il nostro ascoltatore ha puntato l'attenzione sulla pirateria, tra poco vorrei sentire il parere anche di Cristina Mussinelli e il parere dell'associazione che rappresenta gli editori in Italia, se esiste una soluzione o due o tre soluzioni che si stanno esaminando. Numbers 2024. Numbers. Quanti sono i libri in formato digitale venduti in Italia? E quale percentuale di mercato hanno raggiunto? Numbers. Nella nostra rubrica Numbers vi abbiamo domandato quanti sono in Italia i libri in formato digitale e in che percentuale stanno al grande mercato dei libri. Lo chiedo a Cristina Mussinelli, giusto per avere un'idea, anche per capire, esiste un'offerta oppure no? Allora, esiste un'offerta che era di circa 1000 titoli all'inizio dell'anno scorso e che è di 10.000 titoli a dicembre di quest'anno, quindi sicuramente l'offerta è maggiore e i grossi editori e anche alcuni del gruppo dei medi piccoli stanno investendo. Si stima che a fine 2011 i titoli disponibili saranno più di 20.000. quindi i titoli ci sono sia novità che titoli classici che titoli per bambini, quindi anche una varietà di prodotti. Però quanti sono? Il mercato totale? Il mercato è ancora molto piccolo, come diceva Laura Donnini. Le stime che noi abbiamo fatto come ufficio studi e associazione editori è lo 0,1%. Credo che però il ragionamento sia da fare non tanto sulla quota attuale quanto su quello che è successo anche negli altri paesi, dove quello che è cambiato non sono tanto le percentuali complessive ma i trend di crescita. Quindi se uno guarda il mercato per esempio americano, era l'1,5%, poi è diventato il 5%, adesso si è oltre il 10%. Uno dei freni a questa crescita è sicuramente il timore che gli editori hanno nei confronti della pirateria. Prima un nostro ascoltatore, che è un editore, un piccolo editore, appunto ci diceva: vorrei capirci qualche cosa di più, perché il rischio che digitalizzando i miei contenuti poi questi finiscano in rete è molto elevato. Qual è la soluzione? Ma immagino che non ce ne sia una. Le soluzioni che possono essere adottate, prendendo, come diceva anche prima Tombolini, spunto da quello che è capitato nella musica e nel video. Allora, le soluzioni non sono univoche, sono soluzioni che dipendono molto dalle scelte delle singole aziende editoriali. Io credo che gli editori, proprio perché hanno cominciato a investire anche in un numero di titoli consistente, questo problema se lo siano posto, ma in qualche modo se lo siano anche messo alle spalle, perché se no non avrebbero prodotto un tot numero di titoli. Poi ci sono due scuole di pensiero. C'è la scuola di pensiero che ragiona sul DRM tecnico, quindi su quei sistemi che permettono all'utilizzatore di utilizzare il titolo solo in un numero limitato di device, piuttosto che per un certo periodo di tempo tramite prestito, eccetera eccetera. E c'è la scuola di pensiero che invece dice: non metto delle protezioni tecniche ma do un social DRM, quindi un DRM che in qualche modo identifica, inserendo nel libro acquistato in formato digitale, le informazioni relative all'acquirente, e quindi ragionando sul fatto che un acquirente, se lo usa per uso personale, tendenzialmente poi non lo diffonderà in rete. L'altro elemento che credo che sia importante è la pirateria molto forte nel settore editoriale, è quella anche organizzata, non è solo quella dell'utente singolo che prende il libro e lo presta all'amico, quanto delle realtà, soprattutto per esempio nel mondo dell'editoria universitaria è un fenomeno molto forte anche sul fisico, che è quella di organizzazioni che lo fanno in modo molto più sistematico, dove allora lì i danni sono sicuramente molto maggiori. Non so che cosa ne pensa su questo punto Stefano Quintarelli, che è responsabile dell'area digitale del gruppo 24 Ore. Abbiamo fatto un'eccezione, Stefano, per te, visto che tutti i nostri ospiti sono presenti qui a Torino. Tu sei collegato con noi al telefono, ciao, bentornato. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie per l'eccezione. Dunque, a proposito di pirateria, il tuo approccio di che tipo è? Ma è stato interessante, l'ha detto, la pirateria dell'amico che presta il libro. No, evidentemente il libro fisico, se viene prestato, non è un atto di pirateria. Qualche giorno fa mia figlia mi ha chiesto il suo libro sull'iPad: papà, ma posso prestare il libro che ho sull'iPad alla mia amica? E chiaramente la dematerializzazione ci porta a ridefinire il concetto di proprietà e i diritti anche associati a questo. Ora, nella musica, anzi prendiamo i DVD via, nei DVD c'è un sistema di protezione, una misura tecnica di protezione. È stato stabilito da un giudice che mentre l'utente ha sempre il diritto di farsi una copia privata, nel caso dei DVD, visto che bisogna aggirare una tecnica di protezione, prevale il diritto del titolare dei diritti a non essere piratato, che la protezione non venga tolta. Cioè, come dire, il diritto alla protezione prevale sul diritto dell'utente a farsi la copia privata. Ora, il libro che viene distribuito in edicola, in libreria, in tutta evidenza non ha un meccanismo di protezione, perché il testo è tutto lì. L'utente può acquisirlo con uno scanner, digitalizzare il testo e dà di nuovo il testo. Quindi il problema del DRM, quindi delle protezioni tecniche associate al file distribuite dall'editore, evidentemente esiste, però l'utente ha sempre la possibilità di approvvigionarsi dello stesso testo attraverso un altro canale. Questo mi porta a fare una considerazione, perché è chiaro che il testo digitale che viene fornito dall'editore sarà più bello, con delle immagini migliori, con magari senza nessun errore di battitura, mentre quello eventualmente acquisito e circolato piratamente, acquisito da un libro in edicola, magari avrà degli errori di battitura e sarà meno ricco. Però quello che, a cui dobbiamo, che dobbiamo chiederci è: questi nuovi dispositivi ci consentono di leggere cose che sono diverse dalle precedenti, come non so, Video Music ha portato la musica in televisione, la musica si è attaccato il video, adesso il libro sbarca sui tablet e si possono toccare. Ecco, quindi bisogna pensare a qualcosa di più rispetto al libro tradizionale, perché se pensiamo solo al tema della pirateria, uno va in libreria, si compra il libro, lo scansisce, acquisisce, fa l'OCR del testo, che è un'operazione veramente banale con le tecnologie di oggi, e ha un file in formato elettronico che è distribuibile senza alcun tipo di protezione, e questo rientrando nei suoi diritti di copia personale. Sì. Sentiamo il pubblico, visto che all'inizio della trasmissione ho detto avremmo coinvolto anche il pubblico per parlare di libri digitali, di ebook. Allora, nome e anche città, visto che solitamente quando noi abbiamo le telefonate che arrivano al nostro centralino chiediamo come si chiama e da dove arriva. Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Claudio Cazzaniga, vengo da Bergamo. Mi stavo preoccupando della durata dell'acquisto di un ebook. Intendo, a casa ho praticamente quasi tutti i libri che ho acquistato, difficilmente un libro viene perso negli anni. Mi domandavo, nel caso di un ebook, io ho acquisto un ebook, parliamo di obsolescenza nel sistema operativo piuttosto che di sistemi hardware. Tendenzialmente uno smartphone viene sostituito, dura non più di 2 anni, quindi mi domandavo, io come, cioè, sono tranquillo sul fatto che tra 30 anni avrò ancora quell'ebook? Sentiamo Antonio Tombolini cosa ci dice. Ma mi viene prima da rispondere in termini di, se vuole, buonsenso, e cioè sono sicuro che fra 30 anni ritroverò quel libro di carta che ho adesso sulla mensola di casa. Lei mi dice di sì e vedo che annuisce, ne prendo atto. Io, per me, forse sono un po' meno ordinato nelle mie cose, mi è capitato di perdere dei libri perché uno si sposta di casa, eccetera eccetera. Ma al di là di questo, capisco la sostanza dell'osservazione e della domanda. Il quanto dura la cosa che ho comprato è un tema che riguarda tutti i contenuti digitali, la cui soluzione ha un termine, si chiama ridondanza, e cioè quella cosa che io ho comprato e che ho scaricato, per il fatto che l'ho scaricata da chi me l'ha fornita al mio computer, non significa che nel computer da cui l'ho scaricata non c'è più, e quindi potrò avere accesso permanentemente a quella risorsa. E già oggi praticamente in tutte le librerie online che vendono ebook è possibile tornare, perché magari decido di leggere quello stesso ebook con un altro dispositivo, andare nella pagina a me riservata della mia libreria dove trovo la possibilità di rifare il download dello stesso libro. La soluzione di conservazione nel digitale risiede da un lato nello standard dei formati, questa è la grande forza dello standard dei formati, appunto di essere standard. Lo standard vuol dire che è un formato che non appartiene a nessuno, ma come si usa meglio dire in inglese, è un formato che appartiene a tutti in termini positivi, e quindi chiunque può costruire dei sistemi di lettura. Chi me lo fa leggere oggi col suo software fallisce, domani può nascere già un altro operatore che me lo fa leggere perché il codice è esistente a disposizione di tutti. Standard di lettura e ridondanza della possibilità di accesso comunque e sempre per poter riscaricare quello che io ho acquistato. Cioè, mi verrebbe da dire, c'è la stessa sicurezza che c'è nel sapere che io fra 30 anni posso leggere un PDF. Giusto? Assolutamente sì, Cristina, il tema del formato. Okay. No, volevo solo aggiungere una cosa proprio rispetto a questo discorso degli standard. Uno dei motivi per cui il mercato si è anche sviluppato è proprio perché esistono degli standard di formati dei file. I formati più utilizzati sono il PDF e l'EPUB, che sono formati che vengono anche nel tempo manutenuti, soprattutto l'EPUB, da organismi multipli di cui fanno parte sia i produttori di device, sia gli editori, sia i produttori di software e tutte le altre realtà collegate. Quindi sì, questo è un altro elemento. Sì, ricordiamo, perché ci sta seguendo da casa, se volete prendere nota, EPUB sta per Electronic Publishing, una roba del genere, insomma. Matteo da Salerno, buon pomeriggio, benvenuto, l'ascoltiamo Matteo. Sì, buonasera, sono Matteo, appunto. Senta, io ho già in parte risposta alla mia domanda, infatti volevo sapere se hai acquistato un ebook su un device, per esempio su un iPad, potevo poi trasferirlo per leggere su Kindle, su PC, su un altro smartphone o addirittura sul mio TV, e quindi volevo sapere a finale se ero vincolato a leggerlo solo sul device dal quale ho acquistato l'ebook. Sì, abbiamo risposto in parte, però secondo me merita una risposta complessiva, sì. Antonio. In realtà ha ragione, la risposta è sì e no, dipende, verrebbe da dire, in questa fase. Perché? Perché c'è una parte del mercato che lavora sui formati standard. Se io compro oggi, per andare nel concreto, un ebook in formato EPUB, ho la garanzia che quel libro posso leggerlo su qualsiasi dispositivo e posso spostarlo e trasportarlo da un dispositivo all'altro liberamente. Sempre per rimanere in termini di esempi concreti, se io oggi compro un libro elettronico in formato Kindle da Amazon, compro un libro che è in formato proprietario di Amazon, è vero che Amazon rilascia delle applicazioni per poter leggere quel libro sul loro ebook reader, oggi anche su iPad, iPhone e altri device, ma è Amazon che decide di consentirmi la lettura su questo o su quel device. Se Amazon cambia idea e decide che su un nuovo device che raggiungesse il mercato volesse impedirne la lettura, essendo il formato proprietario, può farlo. Questo è da un lato il limite del formato proprietario, questo è dall'altro, dal mio punto di vista, la chance in termini competitivi di creare un ecosistema alternativo e complementare rispetto ad Amazon. Quindi alla domanda posso prestarlo, dipende, mica detto. Esatto. L'ultima mezz'ora di 2024, siamo in diretta da Torino, Salone del Libro di Torino. Naturalmente più tardi, anche domani, altri programmi andranno in diretta da questo spazio di Radio 24. Questo è 2024, il programma dedicato alla tecnologia. Oggi parliamo di ebook, della digitalizzazione dei contenuti. Tra poco sentiremo Maurizio da Roma. Prima però voglio andare a Genova, dove c'è Maria Chiara Grandis, che ha parlato di ebook reader poco fa. Maria Chiara. Enrico, e parliamo di ebook reader anche con chi li vende qui al punto vendita Unieuro di Genova Campi, e questo proprio per approfondire le richieste e i dubbi dei consumatori, lo abbiamo detto, sono tanti, ma anche per capire quanto poi la grande distribuzione voglia puntare su questo mercato. E allora, quelle che sentiremo adesso sono le voci di Enrico Mughetti, che è addetto alle vendite del settore informatico, e poi Martin Paglialunga, che invece è lo store manager di questo punto vendita. Sentiamo cosa ci hanno raccontato. Le persone che chiedono gli reader sono soprattutto persone adulte. Direi che il quarantenne è l'acquirente tipo dell'ebook reader. Molto spesso non scelgono il prodotto senza chiedere la nostra consulenza, perché spesso non sanno che tipo di formato la macchina legge, non sanno se il prodotto legge anche gli MP3 e i video, perché ad esempio queste sono caratteristiche che a volte all'utente interessano. Spesso il cliente non sa quali sono i siti dove andare ad acquistare il supporto elettronico, non sa che spesso può adattare molto facilmente il libro elettronico al formato degli reader, che può intervenire mettendo delle annotazioni, che può aumentare la dimensione dei caratteri. Quindi anche per una persona, non so, ipovedente, può essere interessante poter regolare la grandezza del carattere. Per quanto riguarda la dimensione, a livello di pollici, come si orienta il consumatore? Comunque il cliente vuole che l'e-reader sia grande, non più grande del libro cartaceo, quindi necessariamente siamo legati ai 5, 6, 7 pollici, non di più. E la scheda di memoria, quanto è importante sceglierla con cura? Spesso già di base gli reader hanno almeno 2 giga di memoria, e ci stanno per dire 2 film in 2 giga di memoria, libri innumerevoli, cioè già una biblioteca intera puoi far stare in 2 giga di memoria, che se poi la classica micro SD da 4-8 giga può essere facilmente adattabile, uno può così conservare e archiviare intere enciclopedie. Secondo me il supporto elettronico è molto più usa e getta. Tendo a sottolineare che purtroppo i grossi distributori non si sono ancora lanciati nel mondo dell'e-reader. Questo secondo me è un po' penalizzante, perché spesso il cliente, pur essendo il prodotto di qualità, mi dice: ma io questo marchio sinceramente non l'ho mai sentito nominare. E spesso, ti dico la verità, questo è un po' un deterrente per la vendita. Partiamo dai 99 euro fino ad arrivare a 200-299 euro. Il prezzo più basso è 99, ma il prezzo più venduto diciamo che è sempre intorno ai 120-130 euro. Sono prodotti venduti gli ebook reader? Il lancio è stato l'anno scorso e ha avuto un forte successo all'inizio, però il problema è che quest'anno c'è stato un forte calo sulla vendita di questi supporti a vantaggio dei tablet. C'è pochissima differenza fra il prezzo del libro cartaceo e un ebook. Questo sicuramente è un fatto penalizzante, è penalizzante anche il fatto che in Italia siamo molto affezionati al cartaceo. Secondo me è un fenomeno ancora inesplorato, perché per esempio negli Stati Uniti ha avuto un forte successo, ma comunque è stato lanciato già parecchi anni fa. Noi siamo solo ancora agli inizi, quindi è ancora presto per dire se sarà un mercato che crescerà o non sarà un mercato che andrà molto bene. Parere mio, è ancora presto per dirlo. Bene, questi sono alcuni spunti di riflessione, su alcuni di questi potremmo chiacchierare per molto tempo, per molte ore. Allora, se volete intervenire anche da qui, dal nostro stand al Salone del Libro di Torino, potete parlare e fare un cenno ad Alessandro Longoni, che è qui pronto con il microfono. Io adesso vado a Roma, poi in provincia di Lucca. Maurizio, buonasera, l'ascoltiamo. Buonasera a voi. Allora, chiamo per domandare una cosa. Il mercato dell'editoria scolastica, che potrebbe avvalersi di comunicazione multimediale attraverso i tablet, è attualmente totalmente ignorato, totalmente, ed è un mercato da, diciamo, 10 milioni di utenti, e parlo della scuola secondaria di primo grado, cioè le ex medie per capirsi, di circa 10 milioni di utenti costanti. È un mercato che vale, mi pare, qualcosa come mezzo miliardo di euro l'anno. Eppure questo, per una totale carenza di contenuti e di opportuni linguaggi, perché lì il segreto è nel linguaggio del contenuto, viene totalmente ignorato. Come mai? Sento parlare la direttrice di Mondadori, che svolazza ovviamente sui temi quelli della narrativa, eccetera eccetera, ma quello sarebbe un mercato sicuro, assolutamente sicuro, e tra l'altro soggetto a finanziamenti pubblici, soggetto a tutta una serie di facility che non viene minimamente considerato. Che ne pensa? Grazie Maurizio, abbiamo sicuramente le persone adatte a rispondere. Purtroppo non c'è più il direttore generale di Mondadori, quindi nel caso specifico non può rispondere, però vorrei sentire anche Giacomo dalla provincia di Lucca. Buonasera. Buonasera a lei. Io ringrazio tutti della possibilità di intervenire, vi saluto e vi faccio complimenti per la trasmissione. La mia osservazione è questa: mio figlio, che ha 12 anni, studia a Boston, e nella loro scuola usano il book reader come strumento, peraltro dato in comodato d'uso dalla scuola stessa. Però questi strumenti vengono altamente sconsigliati ai ragazzi che hanno problemi di vista. Volevo sapere se questa difficoltà è un qualche cosa ai quali i produttori di questi strumenti hanno, diciamo, possibilità di mettere rimedio, visto che mio figlio non può usarlo perché ha gli occhiali. Grazie molto Giacomo, risponderemo anche alla sua domanda. Dunque, a questo punto saluto e vi presento Giuseppe Baldi, che è responsabile del Dipartimento Digitale di Giunti Scuola Editore, perché a questo punto vogliamo parlare della scuola, sollecitati anche dagli ascoltatori. Una domanda molto, molto secca. Innanzitutto benvenuto. È vero che la scuola è completamente ignorata dal mondo dell'editoria? No, direi di no, perlomeno il mio amministratore delegato non sarebbe d'accordo, nel senso che Giunti sta investendo moltissimo in questo ambito. Va detto subito che il mercato scolastico è un po' più complesso, come Tombolini ben sa, rispetto al mercato dell'editoria, chiamiamola tradizionale, o come si dice in gergo, in nero, perché presuppone un livello di ingresso tecnologico un po' più alto. Intendo dire che un libro di testo di quelli che tutti noi conosciamo, la scuola primaria o secondaria, forse ecco, si può ragionare un pochino di più sul piano poi all'università, ma insomma questi libri di testo dei nostri ragazzi sono poi molto complessi dal punto di vista dell'impaginazione. Questo fa sì che siano assolutamente inadatti a essere veicolati attraverso gli ebook reader attualmente in commercio. Diverso è il caso dei tablet, che però, come l'ascoltatore, il signor Giacomo da Lucca, ha sottolineato, per esempio pongono dei problemi di usabilità, nel senso che mentre le ink, cioè l'inchiostro elettronico col quale sono fatti gli ebook reader più diffusi, è assolutamente innocuo, anzi molto riposante per la vista, i tablet richiedono uno sforzo molto, molto, molto maggiore. Direi in una battuta, in una parola, che mentre per l'editoria tradizionale si tratta in questo momento di convertire il libro di carta nel libro del futuro, che può essere veicolato attraverso il bit, per la scuola siamo già a interrogarci sul futuro del libro, ovvero una nuova forma che devono prendere i contenuti scolastici. molto più complesso rispetto a un testo sequenziale. Tombolini, secondo te gli editori stanno ignorando il mondo della scuola o, come dice Baldi, in realtà insomma ci sono alcuni editori che ci investono? Ma detto tra noi, visto che siamo in pochi, tra di noi, sì, ecco, sì. Come la vedo io, secondo me gli editori della scuola, Baldi, Giunti e tutti gli altri che non ci sentono, in questo momento sono, e non senza ragione, in una situazione di incertezza e di confusione piuttosto elevata, perché è vero che la complessità della transizione al digitale della didattica è un tema molto più complicato della transizione al digitale di un romanzo o di un saggio. Basti dire che i temi coinvolti sono sì i contenuti e quindi i testi di per sé complicati, sì l'hardware, qual è l'hardware più giusto, probabilmente non ce n'è uno solo, per alcune cose uno e per alcune cose l'altro, e quindi tema conseguente, chi lo paga? Diceva l'ascoltatore che i finanziamenti eccetera eccetera, ma io ci andrei molto piano, la situazione da questo punto di vista, come tutti sappiamo, è molto complicata e non solo in Italia, tanto che negli Stati Uniti le esperienze che si stanno facendo in questa area sono esperienze di start-up, di società private che cercano di individuare dei modelli di business sostenibili. L'ultimo tema, e forse il più importante, della editoria scolastica nella transizione al digitale è quello dell'ambiente didattico digitale. Se non c'è un ambiente in cui fruire di libri di testo digitali, interattività tra compagni di classe e insegnante, interattività tra classi che sono su posti diversi eccetera, se non c'è questo ambiente digitale, diciamo così, l'equivalente virtuale della classe reale, sì, sì. Come si fa a parlare di altre, diciamo, cose? In questo ecosistema, che non è proprio completo come dovrebbe essere, c'è una parola che Cristina Mussinelli ha segnato, che è docenti. C'è anche un altro tema, che è poi anche quello dell'approccio che i docenti hanno alle nuove tecnologie, che come in tutti questi cambiamenti tecnologici registra delle accelerazioni o delle rallentamenti in base molto anche alle abitudini e alla propensione all'uso delle tecnologie da parte della gente. Baldi voleva aggiungere una cosa. Io volevo aggiungere questo, che in realtà la transizione al digitale nella scuola italiana in una certa misura, anzi in una grande misura, è normata appunto per legge, perché noi sappiamo che dal 2012 il Consiglio dei docenti non potrà più adottare libri di testo che non siano o totalmente online oppure misti. Questo, diciamo così, giro di vite sulla digitalizzazione della scuola è stato come dire, molto criticato, ha avuto, diciamo, fronti opposti tra sostenitori e denigratori, ma in ogni caso è un dato di fatto da cui gli editori per esempio devono partire, per cui quello diceva l'ascoltatore da Roma, giustamente, che insomma rimproverava la timidezza degli editori, ecco, da parte mia viene da dire che alla fine poi questa timidezza dovranno poi togliersela, perché ripeto, dal 2012 saranno obbligati. La scuola. E lo stesso i docenti, perché come diceva giustamente la dottoressa Mussinelli, c'è l'altro fronte della medaglia, insomma. La scuola è ancora oggi il regno della pirateria, nel senso che chi non ha fatto fotocopie di libri di testo, le ha prestate all'amico, eccetera, eccetera, o non ha comprato quasi nessun libro perché è andato avanti a forza di fotocopie. La transizione al digitale migliorerà le cose, cioè gli editori avranno maggior controllo, oppure peggiorerà le cose? Ma a me viene da dire questo, però io in questo momento non mi sentirei di rappresentare Giunti, ma soltanto me stesso. Cioè, credo che la pirateria sia davvero un falso problema, e anzi io auspicherei che in questo momento ci fosse molta pirateria, perché solitamente la pirateria è un segno di vitalità del mercato. Quindi io credo che il problema adesso è che c'è poca pirateria, facendo un paradosso naturalmente. Per quanto riguarda specificamente la scuola, ma io direi anche il mercato editoriale in generale, credo sicuramente che l'editore scolastico e non nel ripensare il proprio ruolo deve un po' ripensare anche alla questione dei contenuti. Non credo più che la cittadella dei contenuti vada difesa così strenuamente, così fino in fondo. Esistono alcune cose che i media si portano dietro, internet si porta dietro un concetto molto, molto importante per me, che è quello della fiducia e della socialità. Diciamo che io, se fossi un utente finale, non sarei molto contento, dopo aver fatto, diciamo, l'atto di fiducia rispetto all'editore, di acquistare un libro, mi trovassi poi dopo un DRM che me lo blocca. Ripeto, questo non esprime una posizione generalizzata, ma credo è un'idea abbastanza diffusa tra chi è un po' in questo settore. Chiarissimo, chiarissimo. Torniamo in diretta, siamo a Torino, Salone del Libro, stand di Radio 24, in diretta con l'ultima parte di 2024. Laura da Milano, buon pomeriggio, l'ascoltiamo Laura. Buon pomeriggio, ma ho ascoltato un attimo, io devo dire sono una neofita, cioè ho appena preso, ma parlo di pochi giorni, un Kindle devo dire l'impressione è quella di un costo comunque estremamente ridotto, perché col cambio del dollaro comprato su Amazon.com, credo americana, forse veniva meno di 100 euro. Anche adesso sentendo un attimo quello che state dicendo sui titoli disponibili in italiano, devo dire che siamo sempre un po' indietro, perché se non ho visto male, però qui vale solo per chi sa bene l'inglese, i titoli disponibili in lingua inglese sono più di 300.000. E non so appunto se non so se solo l'Amazon o se sono solo quelli dell'Amazon o sono tutti i libri disponibili in formato elettronico, compreso tra l'altro tutta una serie anche di testi proprio scientifici universitari, quindi che addirittura sì, libri di studio, libri di medicina, libri di informatica, cioè tutto quello che uno vuole. Certo. In questo caso, grazie Laura di averci chiamato, in questo caso Tombolini, però chi ha il Kindle, visto che non esiste un negozio Kindle per l'Italia, può comprare qualche libro in italiano oppure no? No, sostanzialmente no, ci sono alcune cose, c'è ad esempio, visto che siamo a Torino, citiamolo, c'è l'edizione italiana internazionale della Stampa di Torino su Kindle, ma non ci sono ancora libri in italiano perché Kindle non ha ancora finalizzato accordi con gli editori italiani per poterli vendere. In questo caso diciamo che chi è un grande lettore di libri italiani forse deve aspettare a comprarsi un Kindle. Diciamo che esiste in realtà un'altra possibilità, e cioè la possibilità, qui mi rendo conto di complicare ancora un po' le cose, ma penso che sia utile per chi è appassionato di lettura saperlo, su alcuni ebook store è possibile comprare libri italiani in formato Mobi. Il formato Mobi possono essere, è un formato che possono di proprietà Kindle letti, e può essere letto anche su Kindle. Dunque una domanda e una risposta rapida la chiedo a Stefano Quintarelli, responsabile dell'area digitale del Sole 24 Ore. Abbiamo parlato di scuola, negli altri ambiti, e il Sole 24 Ore ha una serie di pubblicazioni pensate per il mondo dei professionisti, ha più senso, meno senso il libro digitale, la digitalizzazione e anche il problema della pirateria forse in alcuni ambiti esiste molto meno, Stefano? Assolutamente sì, il Sole 24 Ore, come giustamente ricordavi, fa nell'area professionale più di metà del fatturato con prodotti digitali, questi naturalmente ad un certo punto la differenza tra contenuto e programma comincia a sfumare, no? Come era stato accennato prima anche da un ascoltatore, mi pare che accennava ai libri di testo delle scuole, si va oltre quello che è il semplice libro, bisogna pensare all'evoluzione del libro, all'evoluzione del contenuto. Volevo, se mi si consente, accennare una cosa rispetto a quello che è stato detto sui formati e sull'importanza dei formati standard. È assolutamente fondamentale avere dei formati standard, e anche il fatto di avere dei formati proprietari con le applicazioni che possono essere lette su dei dispositivi che oggi ci sono, sì, magari ci tranquillizzano oggi, ma non è detto che lo saranno domani. Voglio dire, se noi avessimo oggi un programma per leggere in DOS un determinato file in formato di B3, dovremmo penare lo stesso, pur essendo tutte cose magari note ed essendoci dei lettori disponibili. Quindi il fatto di avere un formato standard che continua la sua evoluzione nel tempo, che viene incorporato nel software fatto da molti produttori, certo, oggi un produttore c'è, magari tra 20 anni non esiste più, quindi legarsi a un solo produttore è complicato, è rischioso, diciamo, quantomeno, che abbia un formato proprietario, pur se condivide quel formato proprietario con delle applicazioni che vengono lette su altri dispositivi, proprio perché quei dispositivi potrebbero non esistere più. E l'ultimissima cosa, come accennavo prima, va redistribuito. 30 secondi, Steve. Il concetto di proprietà, è già successo che dei libri acquistati da qualcuno, poi quel qualcuno sul suo dispositivo non se li è più trovati. Ecco, il fatto di avere il controllo di ciò che avviene sul proprio dispositivo è importante. Lasciare questo controllo al negoziante spesso è comodo, però si rischia che poi è il negoziante che gestisce la tua macchina. Grazie Stefano, buon lavoro e buon weekend, a presto. Vorrei concludere, tra poco andremo da Maria Chiara Grandis, una risposta di 30 secondi, Baldi, dal vostro punto di vista, nelle scuole i libri chi li deve pagare in questo contesto e soprattutto il lettore digitale, chi lo deve pagare? Ma anche in questo caso la risposta è un po' complicata, però in ogni caso non diciamo, ce la facciamo a 30 secondi, no, ce la facciamo, perché diciamo questo, che la scuola ha bisogno di infrastrutture e di formazione. Io quello che mi aspetto, diciamo, dall'istituzione pubblica è soprattutto che le scuole vengano messe in condizione di potersi connettere fisicamente alla rete, che sostanzialmente noi fino adesso abbiamo parlato di file, ma di fatto la vera didattica del futuro si farà in rete, quindi ci sono dei prerequisiti, diciamo, per la didattica tecnologicamente avanzata, e sono appunto la connessione delle classi, la formazione degli insegnanti e gli strumenti per fare didattica in classe. Intendo ad esempio le lavagne interattive multimediali, che come dire, l'elettrodomestico di base. Come diceva Tombolini, cioè è un ecosistema che dovrebbe crescere, ma purtroppo molto lentamente. Molto lentamente, diciamo che piano piano ci stiamo arrivando, però sono tanti pezzi che vanno inseriti nelle scuole. Bene, io ringrazio i nostri ospiti. L'ultima cosa che volevo dirvi è che di questi temi si parlerà a Editech, che è un appuntamento proprio dedicato al mondo dell'editoria e della tecnologia, 9-10 giugno a Milano al Palazzo delle Stelline. Maria Chiara Grandis, concludiamo con i nostri ascoltatori che tu hai intervistato. Sì, Enrico, giusto un accenno a come i consumatori poi qui al punto vendita Unieuro di Genova Campi scaricano i libri digitali. Se scelgono ad esempio, gli abbiamo chiesto questo, se scelgono ad esempio un e-reader con connessione a internet, oppure invece se prima ci sia ancora un passaggio attraverso il computer. Dunque possiamo dire che la maggior parte di loro sceglie ancora i reader senza connessione, anche se però questa tendenza sta cominciando a invertirsi. Sentiamo le interviste che abbiamo raccolto. Senza connessione, perché dato che ho tantissimi PC non mi serve. Non crede che l'acquisto sarebbe più facile? Sicuramente sì. Siete più orientati per un ebook reader che ha la connessione a internet per poter scaricare direttamente oppure no? Assolutamente sì. E secondo voi i prezzi sono accessibili? Direi di sì, insomma, per il tipo di funzione che dà, penso di sì. Con la connessione. E oltretutto su internet se ne trovano tantissimi, si scaricano facilmente. 2024.